il contadino, il tomt e il gigante. C'era una volta un contadino svedese così meschino che nessuno voleva lavorare per lui. Così non gli rimase altro rimedio che quello di spargere la voce che cercava un tomt. Gli gnomi svedesi si chiamano così, per falciare il grano. L'unico tomt che si presentò all'appello era alto mezzo metro, vecchissimo e tutto rugoso, con una lunga barba bianca che spazzava il pavimento. «Il mio aspetto non è un granché, ma lavoro in fretta e bene», disse il tomt. «Se mi dai una buona paga, taglierò tutto il grano in una nottata». «Il lavoro è tuo», rispose il contadino, e aggiunse: «Domattina alle 8 in punto ci saranno per te 2 sacchetti d'oro». Prima di mettersi al lavoro, il tomt cantò una canzoncina. «Io passo la notte mietendo e il contadino sta dormendo. Quando la paga sarà mia, oh, skip, scapperò via». Per tutta la notte il piccolo tomt faticò e alle 7 di mattina l'intero raccolto era stato mietuto e ammucchiato ordinatamente nel granaio. «Finalmente ho finito», si disse il tomt, e alle 8 in punto bussò alla porta del contadino. Bussò una volta, poi un'altra, poi una terza, ma nessuno apriva. Gridò, chiamò, tirò sassi contro le persiane. Finalmente il contadino si affacciò alla finestra brontolando. «Ma cos'è tutto questo baccano?» «E voglio la mia paga», disse il tomt. «Aspetta, aspetta, torna l'anno prossimo a quest'ora e vedremo», rispose il contadino e chiuse la finestra sbattendo gli scuri. Il povero piccolo tomt, furioso di essere stato ingannato, se ne andò in collina a meditare su come vendicarsi. Era una collina dalla forma curiosissima. E quando il tomt arrivò in cima, si accorse che stava camminando sopra un enorme naso. «Bontà divina», disse fra sé, «questa non è una collina, ma un gigante. E io gli ho passeggiato addosso con le mie scarpe polverose». «Non importa», disse il gigante pacificamente. «Sono sempre solo quassù e un po' di conversazione ogni tanto mi fa piacere». Il tomt raccontò la sua disavventura al gigante, che si indignò. «Vergogna, ingannare un piccolo tomt come te». Poi gli venne un'idea. «Andiamo insieme a far visita al contadino. Sono sicuro che quando vedrà un omone come me non farà storie e pagherà». E insieme si incamminarono verso la fattoria. Il contadino stava mangiando quando sentì bussare violentemente alla porta. «Chi è?» ringhiò. Il tomt disse forte: «Sono venuto a riscuotere. Dammi il denaro e presto. Porta male ingannare un tomt». «Vattene!» tuonò il contadino. «Non pago!» Si affacciò alla finestra e vide il gigante armato di un grosso randello. «Se non paghi, perderai il tuo raccolto», minacciò il gigante, e con un soffio fece volare tutto il fieno nello stagno. Poi si appoggiò al tetto, facendolo scricchiolare, e riprese con calma: «Paga, o schiaccerò il tuo comignolo». Malgrado fosse terrorizzato, il contadino era così avaro che non si decideva a tirar fuori il denaro. Il gigante allora scoperchiò il tetto e guardò dentro. Il contadino sedeva sul pavimento della cucina tenendo stretti i suoi sacchetti d'oro. Con mano tremante il contadino offrì un sacchetto. «Va bene così?» chiese. «Non è abbastanza», disse il tomt. «Due sacchetti?» «Ora sì che va bene», disse il tomt, prendendo quello che gli era dovuto. «E uno per me», fece il gigante ficcandosi in tasca un altro sacchetto d'oro. Il tomt saltò sulle enormi spalle del gigante e si allontanarono insieme cantando un'allegra canzoncina. «Sempre insieme, tomt e giganti, fan paura a tutti quanti. E ora andiamo a spendere i soldi alla faccia dei manigoldi».